le notizie in 60 minuti. E buona giornata, l'effetto giorno Anna Migliorati. I titoli in primo piano quest'oggi, anche il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra tra gli indagati nell'inchiesta della Procura di Catania sull'appalto per la gestione del CARA di Mineo. Si alza il tiro dopo l'atto secondo di Roma Capitale. Giovani imprenditori a Santa Margherita Ligure, ci siamo ma sfruttateci per le idee, non per le tasse, dicono. Incidente questa mattina nella metro B a Roma, 21 feriti, un errore umano. L'ISIS minaccia anche i Balcani, vendicheremo i musulmani in Macedonia, Kosovo e Albania. Domani a Sarajevo la visita di Papa Francesco. A Berlino con le dita incrociate, vigilia di finale di Champions per la Juventus. Ed eccoci, allora cominciamo da qui con i temi in primo piano quest'oggi e ricominciamo ancora una volta da Mafia Capitale perché ci sono altri sviluppi che arrivano e come dicevamo innanzitutto si alza il tiro, si arriva al governo nel giorno della prima tornata di interrogatorio di garanzia per i destinatari delle ordinanze di custodia cautelare. Oggi i primi interrogatori davanti al GIP, accanto a questo però restano anche molti dubbi, quello politico da una parte, se Marino resta sindaco ci mangiamo Roma, dice uno dei principali protagonisti di questa vicenda, Salvatore Buzzi, ma il primo cittadino di Roma non ci sta, si tira fuori e di dimissioni non vuole sentirne parlare, anzi. E poi l'altro dato, come dice oggi il presidente dell'autorità anticorruzione Raffaele Cantone, ci sono le infiltrazioni, la mucca da mungere del business dei migranti, il CARA di Mineo controllato, dice Cantone, dopo gli arresti di dicembre, ma l'appalto, nonostante i rilievi, mai revocato. Perché? Cercheremo di capirlo. Ripartiamo però, dicevamo, da qui e innanzitutto dalle novità delle indagini e dagli interrogatori. Me li sto comprando tutti, siamo diventati grossi. Si vanta così in una delle intercettazioni il boss delle cooperative, Salvatore Buzzi, parlando con l'ex NAR Massimo Carminati. Nella mangiatoia dei due capi di Mafia Capitale sarebbe finito anche il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione. L'esponente del nuovo centrodestra è indagato a Catania per turbativa d'asta nell'inchiesta sulla gestione del CARA di Mineo. Il centro di accoglienza è finito anche nell'inchiesta sul Mondo di Mezzo, in particolare per il ruolo dell'ex capogabinetto di Walter Veltroni, Luca Odeven. Non ne so nulla, è il primo commento di Castiglione, che chiede agli inquirenti di chiarire subito la sua posizione. Dopo la retata di ieri, intanto, quella di oggi è la giornata dei primi interrogatori di garanzia. Il primo ad essere ascoltato dal GIP, Flavia Costantini, nel carcere di Regina Coeli, è stato l'ex presidente dell'Assemblea Comunale, il democratico Mirko Coratti, che ha respinto ogni addebito. Con lui saranno sentiti anche l'ex assessore Daniele Ozzimo, anche lui del PD, il dirigente comunale Angelo Scozzafava e il dirigente della cooperativa La Cascina, Francesco Ferrara. Nella lista degli indagati intanto spunta anche il nome dell'ex assessore della giunta Alemanno, Marco Visconti, i cui uffici sono stati perquisiti dai carabinieri delle ROS che stanno già vagliando tutto il materiale sequestrato ieri. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Accanto a questo dicevamo la discussione politica che va avanti, allora oggi che si dice, Elisabetta Fiorito? Beh, sicuramente l'avviso di garanzia al sottosegretario Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra attira le critiche delle opposizioni, per Matteo Salvini della Lega Roma è un enorme mangiatoio, ma Renzi e Alfano dormono, ad ogni sbarco qualche ladro si gratta le mani e addirittura Buonanno, sempre della Lega, dice che ci vuole un prefetto di ferro come ai tempi del fascismo. Per Forza Italia Marino e Zingaretti se ne devono andare a casa, devono dare le dimissioni e Renato Brunetta chiede ad Angelino Alfano di dimostrare di non avere conflitti di interesse e di riferire a Montecitorio sui flussi migratori. Per Beppe Grillo, appunto del Movimento 5 Stelle, Matteo Orfini è bravissimo a giocare alla PlayStation, mentre la mafia si mangia Roma. Abbiamo già detto che il sindaco di Roma, Ignazio Marino, è intenzionato ad andare avanti e anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, commenta ciò che emerge è inquietante, ma in Regione abbiamo bandito 3 gare, abbiamo bandito pagare, scusate, per 3,9 miliardi di euro e quei signori non hanno proprio toccato palla. A te, Anna. Grazie anche ad Elisabetta Fiorito. Parole quelle di Salvini, a cui si riferiva poco fa la nostra Elisabetta Fiorito, che arrivano in realtà da Santa Margherita Ligure, dove sono riuniti i giovani industriali. C'è appunto anche Matteo Salvini, rigorosamente senza felpa, come promesso, dopo un lungo e periodo sofferto di crisi. Segnali incoraggianti indicano che l'Italia torna a crescere, è il messaggio inviato dal capo dello Stato Sergio Mattarella ai giovani industriali, che rispondono. Allora andiamo anche dalla nostra inviata Santa Margherita Ligure, Anna Marino. Come dicevi tu, appunto, qui è presente il segretario federale della Lega Nord, che è già andato via e in uscita appunto ha fatto il suo commento. Ma andiamo per ordine al 45esimo convegno di Santa Margherita Ligure dei giovani imprenditori di Confindustria. Il messaggio è quello che dici tu: ci interessa subito l'intervento del presidente Marco Gai, inquadra proprio questo messaggio, siamo cittadini e quindi politici, e lo fa precedere dalla lettera che tu hai anticipato del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che appunto parla di segnali incoraggianti che indicano che l'Italia torna a crescere. Per questo dice dobbiamo cogliere questa opportunità e sottolinea come questa inversione di tendenza va sorretta e rafforzata con il contributo di tutti e degli imprenditori. Appunto Marco Gai, il presidente dei giovani imprenditori, rilancia il ruolo appunto dei suoi imprenditori, dei suoi associati, che non devono fare solo gli imprenditori, perché rivendicano un ruolo sociale, politico, non vogliono fare solo profitto e pagare le tasse. Però attenzione, Gai ha ribadito non solo il ruolo sociale e politico di 13.000 giovani imprenditori, ma anche che non si vuole scendere in campo. Sentiamo. Allora sentiamolo. Sia chiaro, molto chiaro, non ci interessa scendere in campo, perché il nostro campo non è l'agone politico, ma l'agorà. E in quell'agorà, da imprenditori, vogliamo fare la nostra parte. Forse 13.000 imprenditori giovani non mobilitano tante persone in piazza come riescono a fare insegnanti o tassisti, ma hanno dalla loro la forza del lavoro, della passione e del capitale, la capacità di porsi degli obiettivi e di definire i mezzi per raggiungerli in un arco pluriennale. E questa è la nostra forza, esserci con le nostre aziende e con il nostro impegno. Non possiamo dover pensare di essere costretti a sfilare in corteo o a fare uno sciopero fiscale per essersi ascoltati. Io non sono anti nessuno, è l'euro che è anti Confindustria, anti Italia, anti buonsenso. Quindi siamo semplicemente a proporre idee di buonsenso. È pronto a fare il leader del centrodestra? Ma tanto perché sono io, quanto perché abbiamo una squadra assolutamente pronta alle spalle, se siamo pronti a governare. A Milano si candiderà? Vediamo, una cosa alla volta. Vi trovate d'accordo allora sulla flat tax? Spero di sì, perché penso che sia l'unica via d'uscita. Oggi niente felpa. Per la felpa fa causa. Allora Anna Marino, nel frattempo abbiamo sentito anche Matteo Salvini, a cui ti riferivi prima. Certo, Matteo Salvini ci ha detto appunto che il titolo ci interessa, lo approva, si confronta con gli imprenditori under 40 proprio su euro e flat tax, ha sgomberato il campo dalle critiche di incostituzionalità. Oggi la tassazione è folle, ha detto è una tassa unica e piatta e agile e rispettosa di chi guadagna di meno, e in uscita ci ha detto bisogna fare squadra, quindi accondiscendente, ma ognuno con le sue idee. Allora, Santa Margherita Ligure, ecco, tutto. Anna Marino, giornata appena cominciata, i lavori ne torneremo a parlare anche in giornata. Non c'è Mattarella, che ha presentato invece, perché è invece ad Expo a Milano, allora ci andremo anche noi più avanti. Non c'è questa mattina, quest'oggi, neanche Renzi, perché invece potrebbe essere questa sera, e questo è il giallo del gossip della politica. Il Premier potrebbe andare invece ospite questa sera alla finale di Amici da Maria De Filippi. Vedremo. Intanto torniamo invece a Roma, perché questa mattina c'è stato un incidente nella metropolitana della capitale, dove si sono scontrati due convogli. Ci sono feriti, ma ancora non è del tutto chiara la situazione. Cerchiamo di capirne di più. Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno. Un errore umano sarebbe la causa dell'incidente, del tamponamento avvenuto questa mattina esattamente alle 10:18 sotto Viale America, 200 metri dalla stazione della fermata Eur Palasport in direzione Laurentina. Tanta paura, circa 21 feriti non gravi secondo il 118, nessuno in codice rosso, due in condizioni più serie con fratture alle spalle e al bacino, 12 invece feriti secondo quanto riferito dall'assessore trasporti Guido Improta, arrivato sul posto immediatamente, il quale ha chiarito: in queste situazioni a volte ci sono anche feriti tattici, di qui la discordanza delle cifre, ma sentiamo lo stesso Improta. Per fortuna chiaramente la dinamica non lascia intendere conseguenze gravi, però comunque vanno accertati ovviamente come si sono svolti i fatti e anche i tempi di reazione dell'azienda. Però al momento non ci sono codici situazioni particolarmente gravi. Sicuramente si tratta di due fratture importanti, una come vi dicevo al bacino e un altro soggetto che ha avuto un problema alla spalla. E quanto alla dinamica, dunque, un treno era fermo nel tunnel per dare la precedenza, in arrivo un secondo treno lo ha urtato, quest'ultimo non avrebbe rispettato le indicazioni luminose, ma la velocità era moderata, circa 30 km orari, dunque si parla per il momento di errore umano, l'ATAC ha già aperto una inchiesta, ci sono in corso i rilievi della scientifica mentre si attende l'arrivo del magistrato, in ogni caso i soccorsi, secondo quanto ci hanno riferito, appunto sono stati tempestivi anche perché la caserma dei Vigili del Fuoco si trova a poche centinaia di metri, molti passeggeri, la maggior parte di loro ha lasciato la metro con le proprie gambe, naturalmente erano tutti sotto shock. Ultima informazione, la linea nel tratto Palasport e Laurentina è stata interrotta in entrambi i sensi mentre sono state attivate le corse sostitutive. E da Roma è tutto. Grazie anche ad Alessandra Schepisi. Roma, dove questa mattina non sono fatti mancare gli incidenti, anche a Fiumicino questa mattina atterraggio d'emergenza per un aereo Alitalia partito alle 8:40 per Milano Linate, costretto a rientrare per un probabile impatto con un volatile, procedura d'emergenza che è scattata immediatamente, come accade di rito in queste occasioni, l'atterraggio attorno alle 9 senza problemi. Apriamo la pagina dall'estero, si allunga sui Balcani la minaccia dell'ISIS che annuncia di voler vendicare l'umiliazione subita dai musulmani in Kosovo, Albania e Macedonia. Arriveremo con gli esplosivi, proclama in albanese Abu Mukatil, un miliziano islamico kosovaro che si dichiara rappresentante del gruppo jihadista nella regione in un video diffuso dalla principale casa di produzione dell'organizzazione terroristica nata in Siria e in Iraq. ISIS che ha fatto della propaganda via video una bandiera, si è attrezzato anche in questo. Intanto una battaglia informatica a colpi di indiscrezioni, quella scoppiata tra Stati Uniti e Cina. Washington punta il dito su Pechino per uno dei più grandi attacchi informatici all'America. Il governo di Pechino non ci sta e ribatte con le parole del ministro degli esteri di non aver nulla a che vedere con la violazione dei database dell'Ufficio per la gestione del personale federale americano. Fonti dell'intelligence a stelle strisce avevano infatti indicato al governo cinese come responsabile dell'attacco effettuato da hacker con base in Cina. Ma il fatto resta e tra l'altro non è la prima volta, dato che i servizi segreti statunitensi avevano già denunciato in passato l'attività di cyberspionaggio cinese. In questa occasione però sono stati rubati dati di più di 4 milioni di cittadini americani, la più grave violazione di un database nella storia degli Stati Uniti. Si va da informazioni su incarichi dei dipendenti dell'amministrazione alle valutazioni delle prestazioni e ai dettagli sulla loro formazione. L'attacco sarebbe avvenuto lo scorso dicembre, ma le autorità ne sarebbero venute a conoscenza solamente ad aprile. Enrico Forzinetti, Radio 24, Sole 24 Ore. E restando all'estero, un terremoto di magnitudo 6 ha colpito la Malesia vicino al monte Kinabalu nell'isola del Borneo, l'epicentro a 50 km a est della capitale dello stato di Sabah. Danni alla regione, uno sciatore morto, due sono rimasti feriti, 160 bloccati sulla montagna. Ma voltiamo pagina, allora vi do un dato, nel mese di maggio 46.288 i tweet dedicati alla Juventus in finale di Champions League a Berlino, chissà quanti ne arriveranno nelle prossime ore. Carlo Genta, pronti? Ripetimi quanti? Allora, 46.288. siamo soltanto all'inizio. Siamo soltanto all'inizio perché manca un giorno e mezzo a questa partita che tutti stiamo aspettando. Cioè un e popolo se siamo che a questi numeri prima chissà. Immaginati durante e dopo. Quindi non so quale sia il record. Mi sarebbe piaciuto questo dato, sì, però secondo me... Non so quale sia di batterlo, sì. Ma... più di quelli di Cardi Vandanara, più di questa roba qua. Tu vai sul... No, non lo so, più di quelli di... Io non lo so, non sono iscritto a Twitter, quindi... E nemmeno io, non so esattamente, non so cosa adesso voglia dire, però mi sembra un numero pazzesco. Un numero pazzesco sarebbe anche il triplete, che comunque è un numero pazzesco, perché comunque vada una delle due squadre di domani farà il triplete come l'Inter del 2010. Tutti ci auguriamo che possa essere la Juventus, cioè tutti salvo Gufi, quindi ecco. Metà no, dell'Italia. Non te lo chiedo per chi tifi, non te lo chiedo. Allora, ma non tifo mai, ma ho grande fiducia nella Juventus, perché comunque si meriterebbe questa Champions League, se la meriterebbe Allegri, che mi è molto simpatico. Sarebbe un grandissimo risultato per lui, sarebbe una grandissima rivincita. La Juventus si è avvicinata nel modo migliore possibile a questa finale di Berlino, cioè con grande serenità e con grande convinzione. Non andrà a fare la gazzella davanti al Leone Barcellona, che è l'attacco più forte del mondo, Juventus che ha una difesa solida a cui mancherà Chiellini, e questo l'abbiamo scoperto ieri, giocherà Barzagli, e questa è una tegola per Allegri, certamente, perché Chiellini è un pilastro di quella difesa. Però ieri ci diceva Bruno Pizzo, magari non tutti i mali vengono per nuocere, perché il Chiello, fortissimo giocatore, una partita secca magari è uno di quelli che con l'irruenza rischia di fare un errore. Deve esserci un grande clima davvero. A Berlino, più tardi lo scopriremo con i nostri inviati, ci saremo a Berlino con Dario Radio 24. Ricci, con Giovanni Capuano, con Pardo che è sull'aereo, chissà se li abbiamo mandati tutti là. Non lo so, noi stiamo sempre qua. Senti, è una domanda che rivolgo al pubblico. Ecco, perché io sempre qui e loro tutti e non là. Alla porta di Brandeburgo. Avrete anche qualcos'altro di cui parlare? Appena arrivata un'agenzia, Silvio Berlusconi, che rifiuta l'offerta a 1 miliardo di euro. Sarà vero? Chi lo sa, Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che poi avremo. Infatti abbiamo, a proposito di Twitter, abbiamo ricevuto già 1 miliardo su questa. Magari lo battiamo noi il record. Chi lo vediamo, sa? Vediamo. Appuntamento alle 14. Se ha rifiutato 1 miliardo per il Milan, insomma, tanta roba, tanti soldi. Grande puntata allora alle 14, tutti convocati. Carlo Dopo, Genta, Anna. Grazie. E intanto il traffico. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. E le notizie di oggi in primo piano, anche il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra tra gli indagati nell'inchiesta della procura di Catania sull'appalto per la gestione del CARA di Mineo, si alza il tiro dopo l'atto secondo di Roma Capitale. Giovani imprenditori da oggi a Santa Margherita Ligure, ci siamo, dicono, ma sfruttateci per le idee, non per le tasse. Incidente nella metro B a Roma, 21 i feriti, non sono gravi, la missione è stato un errore umano. Oh, ma scusa, ma sai una metafora, la mucca deve mangiare. Questa metafora io glielo dico sempre al mio amico, mi dice non mi rompe il c***o, perché se questa è la metafora lui ha già fatto. Quindi, ma non l'evento della mangiatoia di Giorgio. Se voglio bacciarmi romper c***o, dice, è possibile che il Salvatore di Real non ci risponda? Sì, ma io investo su di te, sai che investo su di te. No. E magari qualcuno di voi le aveva già sentite queste parole, sono alcune delle intercettazioni dell'atto secondo di Roma Capitale. Franco Figurelli della segreteria di Mirko Coratti chiede a Salvatore Buzzi un'assunzione. Buzzi risponde con la metafora che ormai ha fatto il giro della rete e non solo, la mucca se non mangia non può essere munta. Quale la mucca da mungere è il business dei migranti, il grande business dietro la vicenda di Roma Capitale. Oggi dicevamo il tiro si alza, si avvicina, entra anche in altre stanze oltre a quelle romane, perché c'è anche il sottosegretario all'agricoltura Giuseppe Castiglione del nuovo centrodestra tra gli indagati di un'altra inchiesta, quella di della procura di Catania, ma sull'appalto per la gestione di CARA di Mineo, che è uno dei principali centri di accoglienza per i migranti in Italia. Insomma, la mucca da mungere è la disperazione di chi arriva. Allora salutiamo a Effetto Giorno quest'oggi Anna Luisi, sindaco di Mineo, buongiorno. Buongiorno. Che effetto le fanno queste intercettazioni? Mi dà veramente molto molto dispiacere sentire queste cose. Mi amareggia molto, mi amareggia veramente tanto. Vi sentite tra le mucche da mungere, in qualche modo anche voi come Mineo? Io posso dire che come sindaco di Mineo, insieme agli altri sindaci che abbiamo amministrato il CARA, abbiamo sempre operato dando indirizzo politico senza mai intervenire su quelle attività che riguardano la gestione del CARA, attività che vengono poste in essere dal direttore del CARA, che è l'organo gestionale, il RUP, che ha predisposto gli atti di gara. Noi sindaci del territorio abbiamo cercato soltanto di mediare e facilitare l'accettazione da parte dei nostri cittadini della presenza esagerata dei migranti nel nostro territorio. Senta, ma non è mai venuto il dubbio che qualcosa non funzionasse? Posso dirle che non possiamo e non dovevamo assolutamente mai ingerire nell'attività. Però eravate lì in qualche modo, non era il vostro compito istituzionale, questo siamo d'accordo, però eravate vicini a questa realtà. Dubbi non ne sono mai venuti? Ma qualche dubbio è venuto nel momento in cui successivamente quando abbiamo sentito dell'arresto di Odeven, noi sindaci abbiamo poi avuto occasione nell'ambito dell'assemblea di manifestare il nostro rammarico per quello che accadeva dietro le nostre spalle. Dietro assolutamente le vostre spalle, non le viene in mente nessun episodio, nessuna cosa accaduta che così, anche solo letta a posteriori, come diceva lei, avrebbe potuto far capire che qualcosa non funzionava? Noi nel momento in cui chiaramente è stato arrestato il Odeven ci siamo veramente indignati ed abbiamo fatto diverse riunioni come assemblea per capire in che cosa poteva influire la presenza dello stesso Odeven, però chiaramente noi non abbiamo gli strumenti tecnici che invece può avere nessun il strumento direttore. Tecnico, nessuna sensazione, ma vi sentite in qualche modo anche voi un tassello vittima di questa situazione o no? Certamente, guardi, io sono quella che ha sofferto di più, perché noi Mineo è stato sequestrato circa un anno fa, o anzi circa due anni fa, quando sono stata eletta dai migranti. Avrà sentito delle proteste che ci sono state, certo, dei migranti che hanno, certo, sequestrato il comune di Mineo, dei problemi perché ci sono stati numerosi furti nelle Chi campagne. Chi è che non vi ha ascoltato? Ma posso dire che ci siamo sentiti da soli nell'affrontare questi problemi. Al contrario, spesso si è parlato di business, ma i cittadini di Mineo, noi sindaci, non possiamo assolutamente diventare vittima di una di queste considerazioni. Io non nel consorzio comunitario d'accoglienza non ho mai percepito nulla, non né un'indennità né un gestione di presenza, nulla. Vi costituirete parte civile? Vi costituirete parte civile quando si arriverà eventualmente ad un processo? Se ci sono i presupposti lo faremo, senz'altro. Allora, grazie Anna Luisi, sindaco di Mineo. Buona grazie giornata, buona grazie giornata. Per essere stata con noi. Magari ci torneremo, tornerà ancora Simone Spezia nelle prossimi giorni, perché c'è ancora molto da dire. Intanto andiamo invece a Milano, perché il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella questa mattina ha firmato la Carta di Milano, il documento simbolo di Expo, visita che arriva nella giornata dell'ambiente. A Milano, all'Expo, c'è Laura Bettini, buongiorno. Buongiorno Anna, buongiorno agli ascoltatori. Sì, il Presidente della Repubblica sta ancora parlando, un lunghissimo discorso davvero il suo, che è partito sì dai saluti istituzionali, dall'importanza della manifestazione, dell'Expo, ma come dicevi tu si è poi a lungo soffermato sul diritto al cibo, che è l'obiettivo della Carta di Milano che lui ha sottoscritto oggi, e appunto punto per punto il Presidente adesso sta elencando, diciamo, gli interventi che si possono fare nell'industria, nelle energie, nell'agricoltura, per rendere, diciamo, più sostenibile la nostra presenza sul paese, sul pianeta, e quindi garantire la sopravvivenza dell'umanità in futuro sulla Terra. Ecco Laura, un discorso solo istituzionale, o cosa hai notato nella platea? Dunque, nella platea, beh, tutti sono stati discorsi in generale prima di lui, giusto per fare così davvero la cronista ai nostri ascoltatori, hanno parlato il ministro Martina, il ministro Galletti, la commissaria dell'Angola e ovviamente poi dopo Giuseppe Sala, il governatore della Lombardia Maroni, il sindaco di Milano Pisapia, insomma tutti molto contenti che finalmente il Presidente della Repubblica sia arrivato all'Expo, era atteso dal 1° maggio, no Anna, quindi questa sua visita mancava, c'era molta necessità di questa visita, molti la sentivano anche come un'assenza e quindi un'assenza magari forse di interesse e di appoggio a questa manifestazione, quindi tutti hanno rimarcato quanto sia importante aver avuto il Presidente della Repubblica qui oggi e fondamentalmente gli hanno chiesto da fare da facilitatore, diciamo, di questo dialogo internazionale che l'Expo vuole lanciare sui temi dell'alimentazione, delle energie rinnovabili, della sostenibilità nei confronti di tutti gli altri paesi ospiti, quindi facendosene carico istituzionalmente, diciamo. Allora, un appello in qualche modo al Quirinale, grazie a Laura Bettini, un appello al Quirinale per l'ambiente, quello arrivato e per la sostenibilità, quello arrivato dall'Expo, e allora vi vogliamo raccontare invece una storia concreta. La Procura di Agrigento ha inviato una diffida al Comune, Soprintendenza ed Ente Parco per i ritardi nell'esecuzione delle ingiunzioni di demolizione delle case abusive nelle Valle dei Templi. Sono circa 200 gli ordini definitivi rimasti sulla carta a causa del rimpallo di competenze e responsabilità. La diffida ha risposto il neosindaco Lillo Firetto, che ha chiesto un incontro in procura. Nella nuova giunta c'è anche Mimmo Fontana, presidente di Legambiente Sicilia, impegnato da anni nella lotta contro l'abusivismo nella Valle dei Templi. Allora, lo ha intervistato per noi Maria Luisa Pezzali. La situazione oggi è questa perché nessuno l'ha mai voluta affrontare. Si è preferito sfruttare la condizione di precarietà degli abusivi a fini elettorali e quindi non c'era nessun interesse ad affrontare e risolvere questa questione. Ovviamente questo non è avvenuto solo in Sicilia, è avvenuto in gran parte d'Italia. La politica non ha mai avuto il coraggio di ripristinare la legalità. Le procure della Repubblica hanno finalmente cominciato da alcuni anni a ingiungere il rispetto della legge ai comuni. Ora lei è nella nuova giunta, il sindaco ha chiesto un incontro in procura, che cosa andrete a dire? Io penso che si possa provare a mediare, ovviamente se non si è inerti, perché davanti all'inerzia dell'amministrazione è giusto e doveroso che ci sia diciamo l'intervento della procura che proceda per omissione di atti d'ufficio. Se invece diciamo si impegna il tempo per provare a risolvere in modo condiviso la situazione, sono assolutamente convinto che la procura darà al comune il tempo necessario per trovare una soluzione condivisa. Ritengo che sia una cosa possibile ed è quello che con ogni probabilità si andrà a chiedere in procura d'Agrigento. E anche queste storie concrete nella giornata dell'ambiente. Una piccola pausa, poi torniamo, ci sono anche i mercati che ci aspettano. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Speriamo che si raggiunga un accordo. Poco fa parlare ancora una volta il portavoce di Angela Merkel che commenta il negoziato in corso con la Grecia. Non ci sono sostanziali novità in queste ore, ma il portavoce ha confermato invece una telefonata tra la cancelliera Alexis Tsipras e François Hollande. Nessun commento, si va avanti, ma anche questo influenza i mercati. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Domani Papa Francesco sarà a Sarajevo, capitale della Federazione della Bosnia-Herzegovina, a 20 anni dalla fine della guerra nella ex Jugoslavia. L'ultimo viaggio di un pontefice risale al 1996, quando Giovanni Paolo II visitò Sarajevo, devastata dalla guerra. Nella città c'è grande attesa per un evento atteso da tutte le etnie, croata, serba, bosniaca, e non solo dai cattolici, ripetono tutti a Sarajevo. L'importanza di questa visita viene sintetizzata così dall'ambasciatore Vic Mark, alto rappresentante europeo e capo della delegazione europea, l'ha intervistato a Sarajevo la nostra inviata Raffaella Calandra. La gente ora dice di guardare avanti e di non pensare troppo indietro alla storia, ma quest'anno sono 20 anni dagli accordi di Dayton e sono 20 anni dal massacro di Srebrenica. Ed è in questo paese che ora arriva il Papa, che tutti aspettano perché darà visibilità al paese. Dayton ha in realtà solo congelato il conflitto e ci sono tantissime questioni niente affatto risolte. Ma dall'anno scorso l'Unione Europea ha lanciato un nuovo approccio per le riforme socio-economiche e non vedo ragioni per cui in futuro la Bosnia Erzegovina non possa unirsi all'Unione Europea. La Bosnia ha una maggioranza musulmana e le tensioni religiose qui esplodono molto facilmente, ma la Bosnia può diventare il primo paese europeo a maggioranza musulmana e personalmente penso sarebbe una gran cosa perché dimostrerebbe che l'Unione Europea è aperta a questo. Personally, I would think it would be a great thing because it would show that we can manage, that the EU is open for that. E allora di Sarajevo e dei processi ancora aperti per i crimini di guerra del massacro di Srebrenica avremo occasione di parlarne anche con la nostra inviata anche domani sera a Storiaccio alle 21.30, 20 anni dalla fine della guerra nella ex Jugoslavia. Allora, una notizia, intanto l'agenzia spaziale Russia Roscosmos ha confermato l'11 giugno è la data fissata per il ritorno sulla Terra dei 3 astronauti attualmente sulla Stazione Spaziale Internazionale, c'è anche Samantha Cristoforetti. Tutt'altro viaggio per la First Lady americana, Michelle Obama arriverà in Italia. Prima l'Expo di Milano e poi Vicenza. E prima di rientrare a Washington una sosta anche a Venezia. Saranno queste le tappe della visita italiana della First Lady Michelle Obama con mamma e figli al seguito. La conferma arriva dalla Casa Bianca. La moglie del presidente statunitense sarà in Europa dal 15 al 21 giugno prossimi e viaggerà tra Regno Unito e Italia. Ad Expo 2015 la First Lady guiderà una delegazione presidenziale per promuovere anche nel nostro paese l'iniziativa Let's Move a favore di un'alimentazione più sana, specie per i bambini, accompagnata dal movimento fisico. Michelle Obama visiterà poi il padiglione statunitense e parteciperà a varie iniziative a favore del sostegno alle comunità in salute. Poi la First Lady si sposterà a Vicenza, dove incontrerà i militari americani di stanza in Veneto insieme alle loro famiglie nell'ambito dell'iniziativa Joining Forces. Prima di tornare negli States, Michelle Obama visiterà infine i siti culturali più noti di Venezia. Il viaggio europeo di Michelle inizierà però prima nel Regno Unito, a Londra, dove dopo le tappe in Giappone e Cambogia promuoverà l'iniziativa Let's Girls Learn e discuterà di come Gran Bretagna e Stati Uniti lavorino insieme per ampliare l'accesso delle ragazze all'educazione in tutto il mondo. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Timbravano il cartellino, poi andavano al bar a fare la spesa o ai mercatini, qualcun altro aveva un secondo lavoro, è quanto scoperto dagli uomini della Guardia di Finanza di Foggia. All'alba hanno arrestato 11 dipendenti, 3 assunti a tempo indeterminato, 8 lavoratori socialmente utili del comune di Manfredonia, tutti assenteisti. La storia non è nuova, ma ancora vogliamo tornare a raccontarvele queste storie. Allora io saluto anche il sindaco di Manfredonia, Angelo Riccardi, buongiorno. Buongiorno a voi. Non vi eravate mai accorti di nulla? L'ho chiesto a una sua collega poco fa, lo chiedo anche a lei. 11 dipendenti che ci sono, ma non sulla carta da pagare, ma che poi se ne vanno. È possibile che nessuno se ne accorga? Intanto lei ha chiarito bene che si tratta di 3 dipendenti a tempo indeterminato e il resto sono lavoratori socialmente utili. Quindi. E quindi non ci si accorge di cosa fanno? No. Non è che non si accorge, è più complicato perché le attività di socialmente utili sono attività che si svolgono fuori dalle da un luogo fisico ben preciso. Però molti se gli viene dato un compito e il compito non viene eseguito... Molti fanno parte della manutenzione, molti fanno parte del verde pubblico, è chiaro che questa attività deve essere sotto il controllo dei dirigenti. Ogni dirigente ha in carico dei socialmente utili e queste attività vanno controllate. Però io dico, se un imprenditore dà ad un dipendente un lavoro da fare e quel lavoro non viene fatto, gli chiede come mai. No. Io gli ho detto la stessa cosa prima. Forse lui vuol mettere sul piano, No, loro... beh, intendo dire, i dirigenti risponderanno a qualcun altro, insomma via via si sale nella scala. È chiaro che qui ci sono le responsabilità che vanno tutte quante accertate, ma come abbiamo fatto in passato, faremo anche questa volta, costituzione di parte civile, provvedimenti necessari in questi casi. Come avevamo fatto in passato, perché era già successo anche da voi? C'è stato già un precedente che ha riguardato l'ufficio carte d'identità molto più grave, sul quale precedente il comune di Manfroia si è costituito parte civile e assume i provvedimenti del caso tra sospensione e licenziamenti. Non è un fatto, diciamo, rispetto al quale noi ci tiriamo indietro e non assumiamo le dovute iniziative e le dovute determinazioni. Ascolti, sindaco, sono cambiate le cose negli anni, le chiedo. Però le voglio chiarire una cosa, le telecamere stanno lì mica per caso, perché le abbiamo montate noi. Eccola lì, è lì volevamo anche arrivare. I segnali quindi ci sono, c'è modo per accorgersene. E le chiedo ancora, negli ultimi anni è cambiata un po' la sensibilità su questo tema? Si interviene di più? Ma penso assolutamente di sì. Da parte nostra provvedimenti ce ne sono stati e diversi anni. Il problema è che questo è un malcostume generalizzato che va debellato e che non può essere condiviso in nessun modo, perché c'è molta gente fuori che farebbe, diciamo, carte false per avere un posto di lavoro e dedicherebbe anche, diciamo, ore extra ufficio per portare a casa uno stipendio, e poi c'è chi, pur avendo a disposizione un posto di lavoro, si permette il lusso di fare altro. Quanti dipendenti ha il suo comune? 198. 198, 11 questa volta, l'inchiesta dell'altra volta. Ma lei, continua a dire lei continua a dire 11. 3 più 8, quindi nel suo conto non ci sono quegli 8, sono... Sì, ma lei non può mettere insieme le due cose, sono due cose diverse. Il lavoro è socialmente utile, sono due cose diverse. Beh, ma lavoravano tutti per il suo comune però in qualche modo. Sì, ma non sono dipendenti della pubblica amministrazione. E quindi per questi cosa? Beh, non li può licenziare lei, quantomeno. No, io farò la proposta di licenziamento all'INPS. L'INPS poi procede attraverso la regione Puglia per licenziamento. Ma l'abbiamo già fatto per due casi. Due socialmente utili sono stati già licenziati da noi su un blitz dei carabinieri. Beh, speriamo che sia l'ultimo caso, almeno per il suo comune. Grazie Angelo Riccardi, sindaco, sindaco di Manfredonia, grazie per essere stato con noi. Effetto giorno, 13:44, c'è il traffico.